America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Il Dow Jones ha chiuso con un rialzo dello 0,84%, un rialzo determinato dalla notizia che il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi avrebbe presentato le dimissioni in divenire, chiamiamole così. Ecco, questo per darvi un'idea di quanto si parli dell'Italia in questo momento negli Stati Uniti, nei media, nei giornali, ma soprattutto di quanto si parli dell'Italia nei mercati finanziari, fra gli operatori. Ma prima di parlare dell'Italia vorrei affrontare un altro argomento, quello di Herman Cain, uno dei candidati di punta del Partito Repubblicano, che sembra sia stato coinvolto in 3 o 4 casi di molestie sessuali. The charges and the accusations I absolutely reject. They simply did not happen. Herman Cain ha parlato ieri in una conferenza stampa in Arizona e ha detto che continuerà imperterrito la sua campagna elettorale, che tutte le accuse di molestie sessuali sono totalmente inesistenti. Rigetto tutto quello che mi è stato detto contro, quello che mi contestano semplicemente non è mai accaduto. Poi ha aggiunto: non permetteremo a Washington o ai politici di negarmi l'opportunità di rappresentare questa grande nazione, sono contrari ad avere un uomo d'affari nella capitale. E poi, parlando di Sharon Bialek, che è stata la prima ad accusare Cain pubblicamente, dice: come posso difendermi da queste accuse se non ricordo nemmeno il nome di questa donna? Non so chi sia. Vi faccio un piccolo background su questa vicenda di Cain. Sembra che le accuse di molestie sessuali risalgono a quando Cain era presidente dell'Associazione Nazionale dei Ristoratori. Avrebbe molestato almeno 2 donne, ci sono stati poi degli accordi per rimborsare queste 2 donne e quindi il caso è cresciuto fino a diventare un importante caso nazionale. Con me ai microfoni di America 24 per parlare di Cain e poi dell'Italia e di quel che si dice dell'Italia in America, Vittorio Zucconi, amico, collega, inviato di Repubblica. Buongiorno Vittorio. Buongiorno a te Mario, buongiorno a tutti. Qui abbiamo un altro scandalo piccante, Herman Cain pizzicato, diciamo così. Per la verità era lui accusato di pizzicare anche pesantemente. Mentre ti ascoltavo presentare questo caso, mi è venuto in mente che è trascorso un ventennio esatto, era proprio l'autunno del 1991, quando scoppiò il caso del giudice Clarence Thomas, giudice di colore nominato alla Corte Suprema, che fu accusato di molestie sessuali da un'avvocata che lavorava con lui, Anita Hill. E lui disse: questo è un linciaggio contro un uomo di colore che vuole avanzare nella vita. Beh, non lo ha detto Herman Cain, però c'è un sottotesto in cui sembra voler dire la stessa cosa. Attenzione, perché ce l'hanno con me, perché io sono una specie rara, un uomo d'affari di grande successo e un uomo di colore. Faccio notare che qui parliamo di un elettorato repubblicano, quindi in larghissima parte bianco e con qualche componente, ma non voglio dire razzista, che è una parola grossa, ma diciamo non di grande simpatia nei confronti degli americani di colore. E accennare, sollevare lo spettro di questo uomo nero che molesta la donna bianca bionda, bene non gli farà, anche se per il momento sembra non aver influito sui suoi sondaggi, che restano positivi. C'è, devo dire, abbastanza geniale questo Cain, perché non più tardi di qualche settimana fa, quando già questo scandalo stava cominciando ad emergere, ha detto che l'essere afroamericani oggi non tiene indietro nessuno in America. Quindi lui aveva già messo le mani avanti, però poi adesso, come tu dici, sta cominciando a dare un sottotono di tipo razziale. E la sua difesa non è del tutto convincente, perché quando dici non mi ricordo più, quella donna se ne ricorda, anche perché se lui ci ha provato con tante non si potrà certamente ricordare di una piuttosto che di un'altra. Quindi io lo vedo comunque in difficoltà e io credo che se anche lui oggi o ieri è stato sulle prime pagine, sui teleschermi, e vale forse il detto che non c'è mai cattiva pubblicità, la pubblicità è sempre buona, credo che lui difficilmente sopravviverà a questa cosa. Passiamo a un altro politico che non è sopravvissuto, almeno sembra che sia deciso a dare le dimissioni, il nostro Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Faccio un collegamento con Cain, perché si è parlato molto dell'Italia, di Berlusconi. È vero, hai avuto un po' questa impressione? Ma guarda, il collegamento è fin troppo facile, aggiungo purtroppo, però c'è una preoccupazione oggi che da una parte è puro giornalismo, giornalismo, diciamo pure scandalistico, perché Berlusconi improvvisamente piace. L'uomo che raccontava troppe barzellette è diventato una barzelletta per i giornali del mondo, che traboccano di vignette, alcune anche oscene e offensive. Ma poi c'è il problema che l'Italia, come terza potenza economica dell'Unione Europea, è come pilastro dell'euro. Sanno tutti benissimo che se casca l'Italia e va in default è la fine dell'euro, non siamo la Grecia o il Portogallo, con tutto il rispetto. Quindi c'è un doppio interesse. Del resto, come dicevi tu nell'introduzione, nelle ore in cui Berlusconi ammetteva finalmente che si sarebbe dimesso, Wall Street ha fatto uno zompo in avanti e i siti che guardano i trader, i brokers di Wall Street lo davano come prima notizia del giorno. Wall Street fa un salto perché Berlusconi annuncia le proprie dimissioni. Questa è una cosa assolutamente senza precedenti, almeno negli ultimi 50 anni. Parlando dell'attenzione, c'è una cosa così divertente che ha cominciato a girare su internet ieri, e cioè noi sappiamo che il presidente Berlusconi sta negoziando questa sua uscita, queste sue dimissioni, ha già ottenuto di poter passare questo progetto di legge, e allora si è aperta una categoria che è Berlusconi Conditions. È tutto in inglese, è tutto fatto da americani. Questo per dare un'idea ai nostri ascoltatori anche di quanto gli americani seguano questa cosa. Allora, fra queste Berlusconi Conditions, dunque, che lui richiede per dare le dimissioni, devo dire ce ne sono alcune che sono anche divertenti. Una, per esempio, è proprio riferita a Kane, e questa dice: "No former Italian Restaurant Association employee may ever speak to the press." Ecco, sappiamo che Kane, quando ebbe i suoi problemi di molestie sessuali, era presidente dell'associazione dei ristoratori, e qui dice: nessun ex dipendente di un'associazione dei ristoratori italiani potrà mai parlare alla stampa. Questa è una delle condizioni che ha richiesto Berlusconi. E poi questa, che trovo ancora più carina, è quella di avere un diritto di prelazione nell'ereditare questa bizzarra ossessione di Gheddafi con Condoleezza Rice. Ecco, allora Vittorio, abbiamo così scherzato, abbiamo visto queste battute, è inevitabile che ci siano vignette su personaggi politici che in qualche modo hanno creato sensazione attorno a se stessi, però adesso per noi si apre davvero una pagina importante, cioè quella di dimostrare di essere un paese credibile. Gli americani, è evidente, sia il mondo della politica, il mondo della finanza, spera in un governo di persone competenti con la maggior maggioranza, scusa il gioco di parole, possibile. Francamente nessuno ha più paura né dei comunisti né dei fascisti, la destra, la sinistra sono storie di ieri agli occhi degli americani, non essendoci più neanche il problema Libia, i rapporti poi col Medio Oriente che è cambiato. Oggi la questione è avere gente competente, ne abbiamo una alla guida della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, e gli americani vorrebbero vedere qualcuno anche a Roma, quindi persone competenti che sappiano rendere più solida la posizione finanziaria dell'Italia e, come dicevi tu, di conseguenza anche quella dell'America, che non può permettersi il lusso di un'Europa allo sfascio. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ricordate il concerto tributo in ricordo di John Lennon, si è tenuto lo scorso anno a New York. Ebbene, adesso c'è un CD disponibile, sarà presto in vendita. Da quel CD vi faccio ascoltare, di Patti Smith e Tony Shannon, "Oh Yoko". Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.